4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Siamo giunti anche a metà marzo e allora buona serata, bentornati amici dei motori. Dal maggio 2001 siamo qui ogni sabato pronti a raccontarvi il folgorante mondo dei motori. Lo facciamo in compagnia degli amici di Quattro Ruote da ormai 9 anni, un'auto oppure una moto ogni settimana saranno provate, poi una rubrica dell'avvocato, RC auto, furti, problemi legati all'affidabilità delle auto, richiami aziendali e inchieste di tutti i tipi. Kia Soul, è nata un'anima all'interno di Kia, sarà al centro della nostra attenzione, un crossover che ci ha dato diverse soddisfazioni. Con Daniele Sparisci di Quattro Ruote ne analizziamo pregi e difetti. Buonasera Daniele. Buonasera Roberto, a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Dopo di te seguirà la collega Laura Confalonieri che si occuperà delle buche e delle disastrose condizioni delle nostre strade, cercando di capire come ottenere anche i risarcimenti nel caso la nostra auto fosse danneggiata per colpa del manto stradale. Poi l'inchiesta che stiamo svolgendo sulle assicurazioni online giunge alla quinta puntata. Jenny Alloyd è oggi nostro ospite e termineremo con la seconda parte dell'intervento di Fulvio Dodice, che ha preso una moto e da solo se n'è andato per 11 giorni 3.000 chilometri in Namibia su sabbia e sterrato. L'avvocato Lievore ci fa compagnia oggi per parlare di frecce, come si mette una freccia, sembra scontata ma non lo è, e come e perché si deve tenere la destra in autostrada. Non finiremo mai di ripeterlo, ma non solo in autostrada. Allora, caro Daniele, dicevamo Kia Soul, se sei d'accordo leggiamo subito una scheda che ci dice i dati principali. Cubica, coraggiosa, futuristica. Linee decisamente anticonvenzionali per questa vettura definita crossover, a metà tra una piccola SUV e un monovolume. La Soul della Kia punta su una guida rilassata e su un'ottima abitabilità. Grazie alle grandi ruote, le buche e i fondi sconnessi non sono un problema. Il turbo diesel ha una buona progressione, ma risulta un po' debole in accelerazione. Sullo specchietto retrovisore viene proiettata l'immagine del retro della macchina ripresa da una telecamera. I parcheggi, con questo sistema multimediale, diventano un gioco da ragazzi. Nome: Kia Soul 1006, 16 valvole, CRDI, cool. Carrozzeria: 5 porte, 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,10 m, larghezza 1,78 m. Motore: anteriore diesel a 4 cilindri, cilindrata 1582 cc, potenza 128 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce, automatico solo a richiesta. Prezzo: 19.500 euro. Ecco, queste erano le caratteristiche principali di quest'auto. Mi dai subito le tue impressioni dal punto di vista esterno? Sul nostro sito ci sono anche le foto della Soul. Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta. È una vettura che colpisce, prendere o lasciare, decisamente un oggetto anticonvenzionale, soprattutto di questi tempi. È una vettura coraggiosa, come diceva anche la tua scheda, perché sfida alcuni parametri ed è una vettura che segna la rinascita anche di immagine di un marchio coreano che sta cercando in tutti i modi di catturare l'attenzione anche del pubblico occidentale. Basta dire che il responsabile dello stile della Kia è Peter Schreier, un nome che non dice molto ai tuoi ascoltatori, ma in realtà è il papà dell'Audi TT prima serie, quindi un grande designer. E questo dice molto di più. E infatti la Kia Soul stupisce dal punto di vista del design esterno, estetico, ha invece della rotondità, trova nella squadratura la sua linea predominante, ma sapete che sono le due grandi scuole. Poi si muoverà ancora anche sulle rotondità la Kia con la 3, che è un'altra cosa che abbiamo visto a Ginevra, un'auto veramente particolare. Però questa Kia Soul presenta due versioni per ora, 1006 benzina e 1006 diesel. In arrivo dovrebbe esserci anche il 1004 entro fine anno, però solo benzina. Ascoltiamo allora Giuseppe Bitti, che è l'amministratore delegato di Kia Motors Italia, l'abbiamo incontrato durante la prova a Torino, che spiega le caratteristiche principali e la filosofia che sta dietro a questa Soul. Soul in effetti significa anima, e quindi Soul dovrà essere, vogliamo che sia, la nuova anima della Soul, nel senso che dovrà rappresentare un po' il futuro di questo marchio automobilistico. È una vettura completamente nuova, nel senso che è un concetto nuovo, è un crossover che significa poi la confluenza di diversi concetti automobilistici, ma la cosa fondamentale è che in una situazione di dimensioni contenute, perché parliamo di poco più di 4 metri di lunghezza, si è voluto realizzare un veicolo estremamente comodo, confortevole, in grado di contenere 5 persone comodamente e grazie alle dimensioni di districarsi molto bene nel traffico urbano. E poi direi che la cosa più importante è il design, perché il design è sicuramente molto molto moderno, molto personale e sicuramente è un'auto che non passa inosservata. E quindi credo che in un mondo in cui questo automobilistico, in cui la razionalità, il prezzo sono le cose più importanti, credo che questo possa restituire un po' una componente emozionale ai potenziali clienti. Dottor Bitti, non crede che la questione dei segmenti sia un pochino antica ormai? Crossover, lo dice, vuole saltare da un segmento all'altro. La Sole è lunga 4,10 m, quindi non è una city car, decisamente non è un'auto da 4,30, 4,50, segmenti C e D. Ha senso, secondo lei, oggi, parlando anche di marketing e di targetizzazione, parlare di segmenti alla gente che poi andrà a comprare magari sotto stimolo visivo più che ancora funzionale? Direi sempre di meno. Credo che la segmentazione può essere più utilizzata dagli addetti ai lavori, no? Nel senso, per costruire quelle che possono essere le macrofamiglie a livello industriale. È chiaro che per i clienti cambia, infatti noi vediamo che per la Sole abbiamo una tipologia completamente diversa di clienti che arrivano da tutti i segmenti del mercato, quindi non ha più senso. È chiaro che le motivazioni di acquisto non sono più basate su una segmentazione, ma sulle caratteristiche che uno si aspetta dall'auto che vuole comprare, quindi in termini di motorizzazioni, in termini di dimensioni, in termini di prezzo. Quindi è chiaro che è un mix di motivazioni diverse che non si legano necessariamente alla segmentazione tradizionale. Veniamo ora alle caratteristiche più proprie della Soul. 1.6 è la motorizzazione, in attesa forse entro fine anno di un 1.4. Presenta le due versioni nei due allestimenti agli ascoltatori. Sì, allora, la Sol viene proposta con due motorizzazioni, 1.6 benzina e turbo diesel. Entro il mese di aprile ci sarà anche una motorizzazione B-Fuel, quindi con alimentazione GPL, che in questo momento sta avendo un grande successo sul mercato italiano già con altri prodotti della gamma Kia. I due livelli di allestimento a cui viene proposta la Sol sono due livelli che già sin dalla versione base garantiscono, direi, un ottimo livello di equipaggiamento, quindi non è una versione base da listino, ma è assolutamente una vettura che dispone già di tutti i dispositivi di sicurezza, quindi 6 airbag, ABS, SP, di cerchi in lega da 16 e di aria condizionata manuale. Quindi è una vettura che sicuramente offre già tutto quello che serve a un guidatore già con delle esigenze abbastanza elevate. Anche un buon sistema radio, visto compreso nel prezzo base. Sì, uno dei plus della Soul è sicuramente la presenza di alcuni dispositivi tecnologici. Questa è una radio integrata con la possibilità di connettere l'iPod o un lettore MP3, quindi con i comandi sul volante, quindi questo è sicuramente un qualcosa in più. Quindi sia a livello di equipaggiamenti che a livello di motorizzazione credo che la Sol possa veramente offrire molto. Parliamo adesso di prezzi, oltre ad un lancio speciale, e ci dirà quanto durerà questo lancio sul mercato. Le auto sono già nei concessionari intanto? Le auto sono nei concessionari da questi giorni, quindi almeno una vettura dovrebbe essere disponibile presso i 119 concessionari della rete Kia. Il prezzo di listino parte da 15.9 per la versione Urban 1.6 benzina, per arrivare a 19.5 della versione turbo diesel cool più accessoriata. È chiaro che in un'ottica di mercato difficile abbiamo voluto così dare un piccolo plus in fase di lancio, con un bonus di 1.000 euro condiviso tra noi e dalla rete ufficiale Kia, che durerà fino alla fine del mese di aprile, che significa che si può avere una Sol con 14.900 euro. Ripeto, considerando che si tratta di un modello già molto ben equipaggiato, credo che sia sicuramente una proposta molto interessante. BRC vi preparerà la versione B-Fuel con l'impianto omologato già da voi produttori, che facilita 1.000 problemi che altri hanno aftermarket, ma non tutti, benzina GPL. Riuscirete a stare negli standard per utilizzare gli ecoincentivi? Beh sì, noi l'obiettivo è quello di scendere sotto i 140 grammi di CO2, quindi oltre agli incentivi previsti per la motorizzazione B-Fuel e GPL ci saranno anche quelli della rottamazione, quindi credo che con questo diventerà sicuramente una proposta estremamente interessante. Allora, questo era Giuseppe Bitti, l'amministratore delegato Kia Motors Italia. 30 secondi di commento da parte di Sparisci di Quattro Ruote, poi ci fermiamo e continuiamo la prova della Kia Soul. Daniele. Sì, comunque la Kia Soul diventa una delle novità più interessanti in arrivo sul mercato, sicuramente in questa particolare fascia dove arriverà presto anche la Citroen C3 Picasso, anche se le differenze sono molte. Certo, peccato che non abbiano proposto una versione 4x4, ma insomma in fondo comunque va bene anche così. Le uniche sbavature forse riguardano gli interni, con rivestimenti poco curati e un'abbondanza di plastiche non troppo rifinite. Certo. 4. Ruote e dintorni. Stiamo analizzando, anzi lo abbiamo appena fatto, la Kia Soul, la nuova nata di casa Kia con Daniele Sparisci di Quattro Ruote, che chiude la prova con due pregi e due difetti, anche per riassumere, come facciamo sempre, l'attenzione che abbiamo dato a un nuovo prodotto sul mercato automobilistico. Daniele. Sì, la grande abitabilità di bordo è senz'altro uno dei vantaggi di questa Kia Soul, così come lo è anche il servo sterzo elettrico, molto dolce, molto preciso e particolarmente comodo in fase di manovra, e tra gli altri pregi anche una ricca dotazione di serie. Per quanto riguarda i difetti, come accennavamo prima, sicuramente le rifiniture degli interni, che ancora non seguono gli standard di case occidentali, ovvero l'abbondanza di alcuni tipi di plastica e magari anche un bagagliaio non proprio capientissimo per una monovolume. Molto bene, grazie davvero a Daniele Sparisci di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Chiusa la prova della Kia Soul, adesso ci occupiamo di strade e di dissestamenti. Laura Confalonieri, buonasera. Buonasera a tutti. Sono sempre interessanti le inchieste di Laura, questa volta che cosa avete fatto? Uno stato di salute delle strade italiane? Sì, dunque abbiamo fatto un po' una radiografia della situazione sulle strade italiane, in particolare dopo diciamo la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. Questo inverno ha lasciato, lo vediamo un po' dappertutto, enormi buche, voragini, crepe, dissesti, un po' dappertutto. E poi è stato un inverno molto lungo, pesante, con tanto gelo, tanta neve, quindi indubbiamente questo aumenta a colpire l'asfalto, immagino. Sì, questo sicuramente, perché le buche si formano prevalentemente un po' per l'usura dovuta dal passaggio dei mezzi, anche pesanti, e dalle macchine, e un po' dall'acqua, dalle infiltrazioni, dal ghiaccio che corrodono da dentro lo strato di asfalto. Infatti c'è da dire che nella gran parte dei casi, da Milano a Roma fino a Napoli, le amministrazioni locali che sono state interpellate chiedendo ragione di questo stato pietoso delle strade hanno detto: è tutta colpa dell'inverno, quest'anno è stato un inverno particolarmente duro e quindi dipende da quello. In realtà la situazione non è proprio così, perché se andiamo a vedere il nord Europa, loro hanno degli inverni molto pesanti e delle strade molto ben tenute. Decisamente. Che cosa c'è però sotto? C'è davvero un'impossibilità tecnica da noi? C'è qualche condizione particolare o è questione di investimenti, di qualità del servizio? Perché se in Lituania, in Estonia, in Scandinavia, in Norvegia, poi alla fine dell'inverno le strade sono a posto, non si capisce perché a Busto Arsizio ci siano, per dirne una, le buche. Ecco, la spiegazione è proprio questa, è proprio una questione di investimenti da una parte e di qualità dei lavori e dei materiali utilizzati dall'altra, nel senso che le nostre amministrazioni, che si arrabattano sempre con problemi di bilancio, scelgono di fare i lavori molto superficiali, stendendo, quando si rifanno le strade, si stende un tappetino che è il tappetino superficiale d'usura, che è solo profondo 3-4 centimetri, e sono lavori che, pur facendosi ogni anno sono poi da rifare, perché il tappetino d'usura si rovina in pochissimo tempo. Cosa succede negli altri paesi? Vengono fatti dei lavori molto più in profondità, si fresa l'asfalto, si scava fino a 20-25 centimetri sotto il livello, sì, del piano stradale, si rifanno gli strati anche intermedi, e quindi una strada così fatta, invece che durare un anno, ne dura 10. Certamente costa di più, certo, ma l'investimento alla fine nel tempo si ripaga, perché comunque fare un tappetino di 3-4 centimetri ogni anno costa di più che farne uno di 20-25 una volta ogni 10. Uno ogni 10. È chiaro che siamo alle solite, mi sembra di capire la logica a breve termine invece che quella a lungo termine, eppure non paga veramente, se non nell'ambito del primo anno. Tra l'altro, che cosa succede? Te lo chiedo in maniera particolarmente interessata, perché uscendo dal casello di Milano Nord l'altro giorno ho sentito un colpo enorme, che spero abbiano riparato, ma adesso mi sono dovuto fermare alla prima area di servizio per capire se ci fossero stati dei danni, che per fortuna non c'erano. Era un buco, un chiaro buco. Se mi si fosse danneggiata l'auto, così come avviene purtroppo tutti i giorni a qualche automobilista, potrei avere qualche possibilità di essere risarcito, Laura? Certo, assolutamente sì. soprattutto se la buca non era né presegnalata né in qualche modo anticipata da una evitabile. In questo caso bisogna rivolgersi sempre all'ente del gestore della strada, quindi il comune, la provincia, l'ANAS oppure l'autostrada se si tratta di autostrade, e segnalare innanzitutto subito la presenza dell'ostacolo, del pericolo, chiamare se si è in ambito urbano i vigili, se no la polizia stradale, per far fare un rapporto subito, fare anche delle fotografie, questo è molto importante, se si ha un telefonino con la possibilità di scattare fotografie per testimoniare proprio l'esistenza della buca e del pericolo, dopodiché bisogna rivolgersi appunto all'ente gestore della strada con il verbale rilasciato dalle forze dell'ordine e la documentazione fotografica per richiedere i danni, diciamo il risarcimento dei danni, allegando anche il preventivo o la fotocopia della fattura se si è già provveduti a riparare il danno della macchina. Ecco, così possiamo anche avere indietro quelli che sono i soldi che servono per riparare un danno. Laura Confalonieri, grazie di cuore, a prestissimo, al prossimo lavoro, forse ci sentiremo già sabato prossimo per il cinema legato alle auto. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Adesso rimaniamo in compagnia degli operatori delle strade in qualche modo, ma di chi si occupa di assicurare non più le strade ma i mezzi su cui viaggiamo. Quinta puntata dell'inchiesta assicurazioni online, oggi è di scena Genial Lloyd. Vorrei salutare la responsabile pianificazione, controllo e analisi quantitative di Genial Lloyd, Paola Canfora. Buonasera Paola. Buonasera a tutti. Allora, volevo una spiegazione per gli ascoltatori, se lei mi aiuta, su che cos'è, chi è, da quanto c'è e dove va Genial Lloyd. Genial Lloyd nasce nel 1997 come compagnia per la vendita diretta dei prodotti assicurativi. Sì. È una compagnia che fa parte del gruppo Allianz. Allianz è la prima compagnia di assicurazione europea e ha più di 7 milioni di clienti in Italia, mentre a livello internazionale è presente in più di 70 paesi con più di 85 milioni di clienti. Ecco, la fermo un attimo perché ho notato in questa inchiesta che quasi tutte le assicurazioni dirette, se non tutte, fanno parte di grandi gruppi. C'è una spiegazione strategica, ufficiale? Come dire, i grandi gruppi hanno tutto quello zoccolo ereditato dei clienti tradizionali, no? Che vanno agli sportelli e poi riescono con una compagnia diretta a raccogliere anche il nuovo target di chi si assicura online? Beh, sicuramente a partire dalla liberalizzazione del mercato, le principali compagnie tradizionali hanno cercato di avviare anche un'esperienza di compagnia diretta. Sicuramente questo completa l'offerta dei prodotti del gruppo e allo stesso tempo probabilmente, soprattutto per alcune compagnie, ha creato dei conflitti con i canali agenziali che però ormai sembrano risolti, proprio perché i clienti sono comunque liberi di scegliere. Certo. In quest'ottica si stanno muovendo anche i grandi gruppi. È chiaro. Senta Paola, quali sono i canali più sfruttati da Genial Lloyd? Chiedo anche a lei, come ai vostri competitor, se c'è più gente che usa il web, più gente che usa invece il telefono. Diciamo che Genial Lloyd sicuramente ha un numero molto elevato di clienti che usano il web, proprio perché è stata la prima compagnia a fare e-commerce assicurativo da un punto di vista europeo, a livello di mercato europeo. Direi che noi siamo partiti nel 98 con il nostro sito di e-commerce internet e nel giro di relativamente poco tempo, poco più di un anno, quasi metà della nostra produzione è stata fatta sul canale internet. L'anno scorso quasi due terzi della nuova produzione è stata fatta sul canale internet. Cosa intendiamo con due terzi della nuova produzione? I nuovi clienti, che sono stati acquisiti. Quindi su 10 che entrano, oggi 6-7 li acquisiti attraverso la compagnia diretta. Nel 2008 questi sono stati i dati. Dal nostro punto di vista, però noi offriamo sempre ai nostri clienti la possibilità di contattarci come meglio preferiscono, quindi molto spesso l'internet viene usato anche a supporto del canale call center. I clienti vanno sul sito, valutano la convenienza dei preventivi, la completezza dell'offerta e poi spesso ci telefonano qualora abbiano bisogno di una consulenza aggiuntiva di tipo telefonico. Chiaro, chiaro. Senta Paola, io ho notato, ho sentito molti ascoltatori, ci siamo fatti scrivere prima di fare questa inchiesta evidentemente, e molti preferiscono oggi le assicurazioni online per l'approccio veloce, per la facilità, la comodità, perché costano meno le polizze, i premi sono più bassi. diversi rispetto a quelli tradizionali. Poi molti si impuntano sul fatto, sulla domanda che si fanno: e quando ho un incidente che cosa succede? E allora molti corrono ai ripari con investimenti sul call center, sulla formazione. Come è messa Genialloid in questa fase? Ma allora, Genialloid sicuramente ha puntato sin dall'inizio a cercare di conciliare quelle che sono le caratteristiche che tipicamente uno si aspetta da una compagnia diretta, quindi il fatto che abbia dei prezzi competitivi e che offra un servizio semplice e veloce, con il cercare di non ridurre il livello di servizio rispetto a quello che poteva essere un'aspettativa di un cliente che era abituato a un canale tradizionale. Anzi, noi cerchiamo di essere semplici, veloci, avere buoni prodotti e ottimi livelli di servizi. Le do un dato molto significativo: per 8 anni di fila, dal 2001 al 2008, Genialloid ha vinto il premio Bixi per i clienti più soddisfatti nell'RC Auto. Quindi se uno pensa che usando una compagnia diretta si debba scendere a compromesso col livello di servizio, questo sicuramente non è vero nel nostro caso. Ok, ok, molto bene. Allora, siamo giunti al momento clou. Alla fine di ogni intervista io propongo 3 profili costruiti con 4 ruote. Profilo A: lei mi dirà quanto spende per un RC Auto di un anno con massimale 1,6 milioni di euro, un 40enne, uomo, residente a Milano, libero professionista per la sua BMW X5 3000 diesel del 2005, proviene dalla classe 12, la guidano tutti tranne i minori di 26 anni. E 741 euro. Noi ce lo segniamo perché poi farò uno schema finale, quindi 741 euro, molto bene. Profilo B, 60enne, donna, residente a Roma, casalinga, per una Panda 1100 benzina del 2006, classe di provenienza 5ª, la guidano tutti tranne i 26 anni. 442 euro. 442 per Genialloid. E poi profilo C, il 18enne, uomo, residente a Palermo, studente, la sua Ford Fiesta è del 2008, è un 1200, la classe di provenienza, essendo la sua prima auto, è la 14esima. Prima ipotesi, senza il decreto, l'utilizzo del decreto Bersani, quindi la cifra più alta. 2482 euro. Aia, che male, ma qui so che cadete tutti. E poi con un papà che ha in una prima classe col decreto Bersani? 2048 euro. 2048, fra 2 settimane tutti i risultati sul web, su radio24.it. Paola Canfara, grazie di cuore per Genialloid, a presto e buona serata. Grazie, arrivederci. Bene, grazie a Paola Canfara per Genialloid, buona serata a lei. Quattro ruote e dintorni. La nostra mail vi serve non solo per farci richieste di prove, ma anche per giungere fino all'avvocato Lievore, che è in nostra compagnia. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Imbracciando il codice della strada attraverso il nostro indirizzo email 4, scritto in numeri, ruote@radio24.it, stiamo rispondendo alle numerose mail che ci arrivano, ognuna riguardante evidentemente certi problemi legali accorsi alla propria carriera di automobilista. Cerchiamo di prendere quelle che abbiano anche un significato pubblico, è evidente, e non troppo privato. Quindi scrivete a 4ruote@radio24.it. Ci ha scritto, avvocato, un ascoltatore, le ho passato questa domanda ieri: è stato multato perché viaggiava sulla carreggiata centrale in una strada che invece aveva più carreggiate. Questo è un tema a cui io tengo tantissimo. Intanto, che cosa dice il codice della strada? Sì, iniziamo dicendo subito che effettivamente l'articolo 143 del codice della strada ci dice come i veicoli che si trovino a circolare su una carreggiata a 2 o più corsie per senso di marcia devono obbligatoriamente sempre percorrere la corsia più libera che trovano alla propria destra, poiché le corsie o la corsia di sinistra sono di norma riservate a quello che è il sorpasso. Sì. Questo sia all'interno dei centri abitati e in ogni altro caso, salva una diversa segnalazione. Quindi dobbiamo sempre ricordarci di viaggiare nella corsia a destra più libera, oltre a dover circolare anche sulla parte destra della carreggiata, anche quando ci troviamo in una strada libera, sgombra. Ecco, se invece un automobilista deve girare o superare, come dice il codice della strada, invertire la direzione o modificare la propria direzione, vogliamo aggiungere anche il comportamento corretto? Sì, certo. Allora, in questi casi il conducente deve innanzitutto assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare alcun pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenuto conto anche della sua posizione, della distanza degli altri veicoli e della direzione in cui si stanno dirigendo gli altri veicoli, e poi segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di voler o svoltare o superare. Ovviamente questa segnalazione sarà fatta con l'uso delle frecce. Decisamente. L'uso delle frecce è obbligatorio e dovrà continuare per tutta la durata della manovra e potrà cessare solo quando la manovra sarà terminata. Anche questo non è da dare per scontato, cioè chi mette la freccia fa fare uno o due lampeggi e la chiude, invece per il codice della strada la freccia deve essere inserita dall'inizio dell'operazione di sorpasso fino alla fine. Parliamo adesso di sanzioni, ci tengo tanto perché bisogna tenere la destra, l'autostrada è piena di tre carreggiate, quindi di una carreggiata con tre corsie e la gente si piazza in mezzo, ma perché? Perché non tenete la destra, accidenti? Perché non teniamo la destra? Allora, per chi non circola sulla corsia più a destra, che cosa succede, avvocato? Allora, proprio in questo caso il comma 13 dell'articolo 143 del codice della strada prevede una sanzione da 36 a 148 euro, oltre alla perdita di 4 punti dalla patente. Invece, per quei conducenti che, intendendo cambiare corsia per effettuare un sorpasso, non usano i dispositivi di segnalazione visiva, quindi non usano le frecce come abbiamo detto, si va incontro a una sanzione da 36 a 148, ma con una detrazione di 2 punti dalla patente. Ecco, 4 punti se non teniamo la destra e 2 punti se non utilizziamo la freccia. Ricordiamocelo. Buona serata, grazie all'avvocato Erika Lievore di Milano. A presto e buona serata. Grazie, buonasera a lei e buon lavoro. E passiamo adesso in chiusura della nostra trasmissione ad un altro argomento. In realtà abbiamo già aperto il discorso con l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio 7 giorni fa, probabilmente l'avete riascoltato anche sul nostro web radio24.it, la grande avventura fuoristrada su due ruote in compagnia di Fulvio Dodice. Buonasera, ben trovato Fulvio. Buonasera, ciao Roberto. Grazie per la tua presenza. Fulvio Dodice è stato, ve lo ricordo, amministratore delegato di Ferretti Yacht e più volte nostro ospite per questioni di motori marini. Invece adesso si è inventato una nuova avventura, è il caso di dirlo. È andato in Namibia da solo, in moto, fuori strada, dimostrando che è possibile organizzare un viaggio in sicurezza, nonostante per definizione sia un viaggio di avventura, e quindi porti dietro di sé il rischio che questo necessita anche per forza, se no andiamo tutti in Maremma a fare delle belle curve sull'asfalto e siamo a posto. È più rischioso, in realtà. Tra l'altro è più rischio, trattori, contromano, cose di questo genere. Va bene, ci ha già raccontato la preparazione, se no la potete recuperare su radio24.it. eravamo rimasti a questo viaggio in Namibia. 11 giorni, 11 mesi di preparazione per fare 11 giorni da sogno, 3.000 rotti chilometri, di cui più di 2.800 fuori strada per scelta. Il mezzo, lo ripetiamo, è stato un BMW 1200 GS preparato ovviamente ad hoc. A questo proposito ti chiedo, la moto era originale quando sei partito o hai portato dietro pezzi particolari, l'hai adattata? La moto era assolutamente originale, la moto è una moto affidabile, pochissime protezioni aggiuntive della Touratech, che è specializzata nel fare queste cose, ma fondamentalmente moto strettamente di serie. Qualche ricambio al seguito per l'emergenza, deciso da me, che conosco benissimo quella moto e ci avevo già fatto Tunisia, il deserto tunisino e un Sardinia off-road, quindi sapevo bene quali sono le poche cose che mi dovevo portare dietro per l'emergenza. Ascolta, hai parlato di grande affidabilità la volta scorsa, io voglio sapere anche quali inconvenienti sono avvenuti durante il viaggio. Ma inconvenienti veri nessuno, il problema è che ti muovi in un fondo che è continuamente diverso, passi dalla sabbia alle rocce, ogni 300, 400, 600 metri c'è un avvallamento profondo in cui puoi trovare di tutto, acqua, quest'anno era stato un anno ricchissimo di acqua, sassi, massi, sabbia, rocce. A questo tipo di terreno ha fatto riscontro un fine corsa delle sospensioni e il conseguente danneggiamento della protezione della coppa paraolio. D'altra parte la protezione lì, appositamente per questo, ha fatto il suo lavoro. Molto bene. Per quanto riguarda l'autonomia invece, avevi problemi di rifornimento? Perché l'altra volta abbiamo accennato, poi non abbiamo chiuso il discorso. La moto che ho scelto, l'avevo scelta proprio per i grandi viaggi, ha 34 litri di serbatoio e quindi tiri fuori in condizioni normali circa 700-750 km. Quei fondi in realtà ti mangiano moltissimo e quindi è come lavorare sempre in condizioni estreme, e hai circa 580 km di autonomia. Ah, ecco. Sei in grado, Fulvio, di farci capire di quanto aumenta il consumo rispetto a un ciclo urbano, extraurbano qui da noi su asfalto, su quei terreni, a quelle andature su sabbia e sterrato? aumenta molto, perché da 750 km che faresti in condizioni normali, sullo sterrato ne fai circa 500-550, quindi in realtà è una riduzione di autonomia di un terzo. E per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento benzina? Scarse e limitatissime. Quando siamo andati in mezzo alla popolazione dei boscimani, era la prima volta che una moto saliva fino a loro, perché c'è un salitone terrificante di sabbia. In realtà siamo riusciti a percorrere 580 km, sono arrivato al distributore e ho fatto 35 litri, la moto ufficialmente ne tiene 34 e mezzo. Fantastico. Quindi c'erano i vapori della benzina, però veramente popolazione fantastica, meritava. Non ho mai avuto un problema di fine carburante, questo è stato il momento più rischioso da questo punto di vista di tutto il viaggio. Notevole, tra l'altro la documentazione è stata fornita anche da uno sponsor, da un amico che ci ha messo del suo, ti ha seguito per alcuni pezzi in macchina, ha girato tutto un filmato che poi è passato, mi pare, su Sky, no? È passato su Sky, sul canale 237 a gennaio. Il regista e colui che ha fatto anche fisicamente le riprese è Vittorio Bandini Confalonieri, che devo ringraziare, come devo ringraziare la MAN che mi ha supportato moltissimo in questa mia avventura. E dicevamo un sacco anche di fotografie meravigliose per vedere quelli che sono poi i grandi colori, le grandi passioni di chi ha il Mal d'Africa. Ci racconti anche qualche cosa vissuto da una moto, ecco, la differenza che andare in Jeep, per esempio. In moto respiri, senti gli odori, senti i profumi, sei immerso veramente nel paesaggio molto più che in automobile. In automobile sei più rilassato, sei distratto da tante cose, in moto no, leggi continuamente il territorio in cui ti stai muovendo, un po' per motivi di sicurezza e un po' proprio per il piacere di farlo, quindi sei più integrato. Benissimo, devo chiederti a conclusione di un viaggio così che cosa ti sei portato esattamente a casa. Hai video, hai fotografie, immagino tu le sfogli molto spesso, hai dei ricordi, degli odori, che cosa ti è rimasto in fondo al cuore di un viaggio così avventuroso? L'anima dell'Africa, queste popolazioni che vivono con una dignità incredibile, senza soffrire, ma veramente parte di questo territorio, vivono l'Africa in un modo stupendo, e i bambini che ti prendono veramente l'anima, felici come se fossero le persone più ricche del mondo. Posso immaginare, con l'arrivo di un motociclista con tanto di casco, tuta coperto di sabbia, per loro deve essere una gioia infinita, no? Certo, da coperto di sabbia a coperto di bambini, ma è stata una cosa bellissima. Fantastico, allora chiudiamo con il futuro, che cosa questo ti ha lasciato? L'hai detto l'altra volta quando dici torni e hai appena voglia di ripartire. Il futuro è un altro viaggio in condizioni abbastanza estreme. Sto preparando un viaggio in Himalaya che mi porterà a attraversare posti meravigliosi, il Kashmir fino al Ladakhi, quindi con dei sempre passi in moto, sempre in moto, sempre con la mia fedele BMW. Sto vagliando in questo momento gli ultimi dati tecnici in relazione all'altezza, perché attraverserò il passo più alto del mondo, 5.920 metri, con problemi, immagino, di carburazione per le moto a quell'altitudine, anche con qualche problema di carburazione per gli umani forse. Infatti, quindi perché ci sono un po' di problemi che stiamo vagliando, però l'Himalaya, il Kashmir, questi territori fantastici che mi faranno, credo, sognare un'altra volta e di cui spero di riportare a casa l'anima. Grandioso, veramente. Allora, un'ultima domanda può essere quella di mettere a disposizione tutta tua questa esperienza per gli ascoltatori. Abbiamo citato sahara.it come sito di riferimento per tutti coloro che amano l'Africa avventurosa, abbiamo citato quellidellelica.com, che è un sito relativo a tutti gli amanti BMW, ma non ufficiale, non della casa tedesca, che si scambiano 1000 informazioni, e spesso queste, guardate, sono le fonti principali per chi prende e fa un viaggio, cioè andare a chiederlo a chi quel viaggio l'ha fatto e porta documentazione da confermare, ovviamente da analizzare al ritorno a disposizione di tutti. Ce n'è ancora uno, Tracks for Africa, scritto 4 Africa, quindi tracksforafrica.com. Sì, tracks come tracce, è un sito da cui si possono downloadare tutte le cartografie. È essenziale, è importantissimo, il viaggio è sicurezza. Non fare viaggi avventurosi pensando poi ci penserò. Pensate che la cosa più importante del viaggio siete voi. Tracks for Africa, scaricate le fotografie e viaggiate con la mente prima di viaggiare con la moto. Anche per questo parlavamo l'altra volta di viaggio avventuroso, sì, però non pericoloso. Un viaggio viaggio in sicurezza con tutte le emergency exits, così le aveva definite sabato scorso Fulvio Dodic, che è stato nostro ospite. Caro Fulvio, grazie per questa avventura, a presto, ti aspettiamo al ritorno dall'Himalaya. Grazie Roberto, ci sarò. Finché sarai raggiungibile potremo sentirci al telefono durante il viaggio. Sono sempre raggiungibile, ho sempre un satellitare con me. Ne parliamo con Radio 24. Grazie a tutti voi per l'ascolto, questa era Quattro Ruote Dintorni, che torna sabato prossimo alle ore 21 per tre quarti d'ora dedicati ai motori. Giacomo in regia, Roberto Rasia in voce, vi saluta e vi augura intanto una buona domenica, ma soprattutto una buona guida.